edizione. Notizia della notte, l'aereo con a bordo l'ex dittatore di Panama, Manuel Noriega, estradato dalla Francia e arrivato nel paese dove l'ex uomo forte, che ha 77 anni, ha già passato oltre 20 anni in prigioni americane e francesi per traffico di droga, potrebbe essere condannato ad altri 60 anni di detenzione. Prima edizione. Le 6, 18 minuti e 38 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, e iniziamo dal Corriere della Sera, che apre naturalmente sull'incontro di ieri tra il Presidente del Consiglio Mario Monti e i sindacati, e il titolo scelto è "Gelo con i sindacati". Monti, gelo con i sindacati. Il Premier dice solo ritocchi, sciopero confermato per oggi. C'è un'intervista con Pierluigi Bersani, che il cui titolo è "Modifiche, però il sì non è in discussione", e sulla questione dei sindacati c'è un commento a firma del vice direttore Dario Di Vico, che dice "l'insidia del titolo è l'insidia dei troppi no, dimenticare la crescita", è riferito proprio a CGL CISL e UIL. Invece l'editoriale vero e proprio di prima pagina a firma di Ernesto Galli della Loggia, che tratta il tema delle emergenze del diritto costituzionale, cioè di come si è arrivati dunque al governo Monti, stato d'eccezione ma non se ne parla, questo è il titolo. A centropagina torna il Corriere della Sera, che ieri aveva aperto con un'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate, guida di Equitalia, Attilio Befera, torna sull'evasione fiscale. "I calcoli dell'evasione negli ultimi 30 anni è cresciuta di 5 volte, pezzo a firma di Sergio Rizzo. C'è anche un commento in prima pagina, invece firmato da Piero Stellino, sulla questione di Equitalia, sulla questione dei controlli. "Controlli necessari", scrive Stellino, "burocrazia invadente". A centropagina anche una foto dedicata allo sport, tanti errori in Bologna-Milan quando l'arbitro chiede scusa, e si parla di Gianluca Rocchi, vi abbiamo riferito poco fa di come è andata per quanto riguarda Bologna-Milan. E poi di taglio basso invece la cronaca, ucciso a 16 anni per una sigaretta, la notizia che avete sentito anche poco fa in GR24. Apertura della Repubblica, "Monti sindacati e rottura, Palazzo Chigi, manovra, saldi intoccabili", e la Camusso dice "governo sordo sull'equità". Titolo del commento di prima pagina, anche qua, del vice direttore Massimo Giannini, "il bisogno di giustizia sociale". E a centropagina che cosa troviamo? Troviamo le donne che sono scese in piazza, le donne di "Se non ora quando" che sono scese in piazza, sfilano in 100.000 nelle città, c'è una foto, le donne riconquistano la piazza, "solo con noi si esce dalla crisi". E poi il raid anti-rom, il ministro Cancellieri dice "no alla legge fai da te", Torino e raid anti-rom, "la ragazza scusatemi". Questo è il titolo. Il commento a firma di una scrittrice, Michela Murgia, "tra la logica del pogrom e il mito della vergine". Da segnalare oggi su Repubblica anche le mappe di Ilvo Diamanti, l'osservatorio Demoscope nella fattispecie. "L'Italia sfiducia i TG, Rai e Mediaset e cerca libertà su internet". E viene riportato un grafico in prima pagina nel quale si chiede dov'è che l'informazione è più libera. Internet 40,4%, televisione 21,2%, quotidiani 17,8%, così la Repubblica. Questo è il quadro generale del quotidiano. Segnaliamo anche, allora, La Stampa apre con "Monti che non convince i sindacati, sciopero confermato, stipendi dei parlamentari, Fini e Schifani si va avanti. A proposito della casta, per così dire, c'è un titolo dedicato alle parole che dice Rosi Bindi: costeremo meno della media europea. Crosetto dice basta rinvii o perderemo la faccia. Quindi si allarga il fronte di chi invece vuole i tagli subito, evidentemente. L'ex ambasciatore americano, interessante l'intervista all'ex ambasciatore americano Ronald Spogli, che dice subito le riforme, investimenti esteri oppure fallirete. Torino, nel frattempo, naturalmente, La Stampa, il quotidiano di Torino, ha una bellissima foto a centropagina di quello che c'era il giorno dopo il raid, quindi col fumo che ancora esce, il raid contro i Rom. Torino si interroga sul raid della vergogna, le indagini, un attacco studiato nei minimi dettagli, Molotov, spranghe, bastoni, sospetti sul mondo degli ultras, i campi, l'ex sindaco Chiamparino che dice i campi però restano una vera emergenza. Questo è dedicato anche il buongiorno di Massimo Gramellini, il titolo è I cerchi dell'impotenza. Si parla anche del vertice ONU sulla stampa, quello sul clima, l'accordo, c'è l'accordo ma si agirà dal 2020. Il Sole 24 Ore di oggi è il Sole 24 Ore del lunedì, l'apertura è sulla casa, la casa che porta al fisco 53 miliardi tra IMU, ICI ed estimi rincarati, il gettito del 2012 crescerà del 26%, sono gli effetti sugli immobili del decreto varato dal governo. Un commento di prima pagina, firma di Gualtiero Tamburini, sul mattone tanto rigore e poco sviluppo, e poi questa sorta di iniziativa che è il poster della previdenza, pensione di vecchiaio anticipata, così cambia l'età di uscita. Di taglio basso c'è la stretta sui debiti delle imprese, ne abbiamo parlato poco fa in GR24, dal 1 gennaio con le regole di Basilea dimezzati i tempi per rientrare dall'esposizione, intesa con le banche per evitare revoca e aggravio dei cosiddetti ratio patrimoniali. Il Messaggero, i sindacati sia lo sciopero, rottura con il governo, fine Schifani, subito i tagli agli stipendi. E poi lavoro e scuola, ecco il piano di sviluppo, un pezzo a firma di Diodato Pirone. Per quanto riguarda il calcio, c'è da un quotidiano romano come il Messaggero, cioè, si parla di Luis Enrique che si gioca il futuro con Roma-Juventus. A centropagina l'uccisione del ragazzo di 16 anni per una sigaretta, e una storia interessante di taglio basso: tutti gli esami a tempo di record, ma l'università non lo fa laureare. Questa è la storia di un ragazzo di 21 anni romano. Diamo un'occhiata anche ai quotidiani esteri, quello che troviamo nella giornata di oggi. Il Financial Times, vi parliamo prevalentemente delle pagine economiche perché oggi sono particolarmente importanti vista l'attesa per i mercati. Il Financial Times titola su Cameron che si prepara a difendere il veto europeo, il Wall Street Journal dice che i governanti e gli investitori aspettano il verdetto sul summit di venerdì da l'unica istituzione che pensano che possa bloccare la spirale del debito europeo, ossia la Banca Centrale Europea. Vi vogliamo segnalare nella giornata di oggi, prima di chiudere, anche giustamente come la vede la stampa inglese, questo stop della Gran Bretagna all'accordo venerdì, e soprattutto come vede questo accordo. Prendiamo due quotidiani, il Guardian e il Telegraph. Allora, il Guardian ci dice prima che il summit di venerdì a Bruxelles virasse in una crisi dell'Unione Europea, doveva servire a risolvere la crisi dell'euro.

tutti compressi dentro una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera, tipo 24 ore, e collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori contrattano i loro affari. La geninite viene attivata da un timer. 12 dicembre 1969. Piazza Fontana. Il giorno dell'innocenza perduta. 17 morti più Pino Pinelli fanno 18. E 88 feriti. Alle 16:37 noi italiani eravamo tutti vecchi. Ed è tutto, Italia in Controluce torna oggi alle 13:30. Buona giornata. Le 6:39 minuti e 48 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Noi adesso ci occupiamo del rogo al campo nomadi di Torino. Si indaga anche, come sapete, come vi abbiamo raccontato, negli ambienti del tifo ultras cittadino. Intanto i rappresentanti dell'opera nomadi cittadina si mobilitano. Oggi pomeriggio si incontreranno e vogliono sollecitare un piano di intervento per i nomadi torinesi. Le borgate sono una polveriera, avverte Secondo Massano, presidente dell'opera nomadi Sotto la Mole. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Dovremmo ritrovarci verso le 16 per vedere, fare il punto e fare una specie di protesta. Ovviamente chiederemo più per sindaco, al prefetto, un intervento radicale sia per quel gruppo lì e anche per gli altri. Chiederete che vengano spostati altrove, che vengano dati loro degli alloggi? Cosa chiederete? L'unica cosa potrebbe essere avere dei contatti con dei comuni vicini Ori che possono disporre di cascinali, non da fare campi sosta e neanche baracche. C'è gente che non ha più la baracca, è un po' l'abitazione di tantissimi rumeni in Torino, i quali non hanno, da quando sono in Torino, non hanno quasi mai avuto dei provvedimenti in loro favore. Comunque volevamo fare un punto, soprattutto perché il problema non è solo di quella borgata, il problema è di tante borgate dove il problema dei rom rumeni purtroppo non è mai stato affrontato adeguatamente. Dovrebbero essere spostati da questo tipo di insediamento. Non c'è un progetto da parte della città di Torino, via. La progettazione di sicurezza è in mano al prefetto, tutto si rimanda al prefetto. Nel frattempo capitano quelle cose lì nelle borgate e basta solo un fiammifero per accendere un focolare, via. Queste borgate sono come una miccia sempre pronta ad esplodere? Direi di sì. Hanno visto l'inserimento anche di un certo gruppo di rom che sono in Torino da 20, 30 anni e più. Questi ultimi, stiamo parlando di rom rumeni, e non c'è nessun progetto per poterli salvare o recuperare. Ma secondo lei, fatti come questo assalto al campo rom che c'è stato innescato da una bugia, sono la conseguenza della mancanza di politiche adeguate di accoglienza e di integrazione, oppure da che cosa sono innescati? Sono mancanze di politiche, senz'altro, perché le persone che vivono su un certo territorio hanno contatti con la popolazione non sempre cordiali, non sempre affettuosi, no? Però una cosa del genere non era mai capitata. Secondo lei Torino è una città razzista? Torino è una città che ha dei problemi in questo momento, non è una città razzista, però in questo momento basta nulla, che potrebbe anche capitare quello che è scapitato. E adesso questo è il quadro dal lato della vicenda torinese. Noi adesso cambiamo argomento e parliamo di campionato. Lo facciamo con il nostro Dario Ceccarelli che ci ha raggiunto in studio. Dario, per una volta parliamo di una squadra, come dire, provinciale, se così possiamo dire, insomma, no? Sì, finalmente, sì, di una piccola, ecco, una che volta, domina. Tanto in attesa di Roma-Juventus di stasera, dove ci saranno tutti i riflettori puntati, parliamo di questa Udinese, la vittoria sul Chievo e il pari del Milan, anche che frena, portano questa Udinese capolista per una notte a 30 punti. È una specie di miracolo in bianco e nero made in Friuli, perché non finisce mai. Guidolin dice un momento magico, facciamolo durare a lungo, però in realtà l'Udinese è da 47 partite che viaggia oltre 2 punti di media, in casa all'uno fisso 7 volte su 7, quest'anno di Natale capocannoniere con 10 gol. Quindi è un progetto quello dell'Udinese, non è solo, diciamo, il miracolo della provincia. E tra l'altro ricordiamo che ha fatto meno di un campione come Sanchez, che è venduto alla Barcellona, e quindi costruisce ogni volta questo giocattolo continuando a lavorare sui ricambi. Un po' è in piccolo il Barcellona, adesso dico una cosa che scandalizza, sì. Però cioè, è quell'idea che una squadra in fieri, che si cambia continuamente, che con giovani, oppure Siena nel basket, per esempio, esatto, perfetto. E molti lo ricordano al Verona dello 85, quello di Bagnoli, però c'è una differenza. In quell'anno lì il Verona godette delle vacanze di Roma, Napoli, Juventus, delle grandi di allora, e in questo caso invece l'Udinese deve vedersela con squadre che comunque vanno benone. Adesso si vedrà comunque domenica prossima c'è Lazio-Udinese, poi il 21 dicembre Udinese-Juventus, quindi siamo al momento clou. Vedremo che cosa succederà. Abbiamo una breve pausa per la viabilità, poi invece con te, Dario, voglio tornare invece su un altro tema, le scuse di un arbitro. Prima edizione. Le 6, 46 minuti e 50 secondi, ancora col nostro Dario Ceccarelli, per parlare dell'arbitro che ammette l'errore. Sì, Gianluca Rocchi ha fatto tanti sbagli, non ne ha azzeccata una in Bologna-Milan, le sue sviste hanno condizionato la partita, però è successo un episodio particolare che nella storia degli arbitri non si ricorda. Cioè, alla fine, quando doveva stringere le mani ai giocatori, eccetera, eccetera, a un certo punto si è reso conto di aver condotto la partita in un modo disastroso e ha detto: sì, se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa. Ecco, nella storia del calcio è un fatto da segnalare, perché mai, non so, un Lobello, i grandi arbitri di una volta avrebbero chiesto scusa di nulla. Ecco, forse era meglio quando gli arbitri arbitravano bene, non chiedevano scusa, però siccome gli sbagli ci sono sempre stati, va comunque notata la sua parziale così giustificazione. Comunque rischia soprattutto gli europei, perché dopo questa ennesima caduta è difficile che questa la sua candidatura per gli europei possa essere confermata. Vedremo che cosa succederà. Grazie dunque a Dario Ceccarelli, e noi adesso parliamo di mercati. Parliamo di mercati perché il vero giudizio dei mercati sul vertice di venerdì, quello che ha sancito la spaccatura tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, e soprattutto sui risultati del vertice europeo, arriverà oggi. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, Simone, anche a te soprattutto. Grazie. Senti, quali sono le attese di massima, naturalmente? Non è che ci mettiamo qua a dire andrà bene, andrà male, però... No, anche perché tanto ogni previsione, come tu sai, da qualche tempo la sbagliamo sempre tutti, pertanto così dovremmo proprio fare un test alle 9 per verificare quale sarà la reazione del mercato rispetto a tutto quello che è successo nelle ultime giornate. Si può però dire che la settimana teoricamente riparte sotto buoni auspici, visto che venerdì si è chiusa con rialzi soddisfacenti per le piazze internazionali, che hanno mostrato di aver apprezzato, o almeno di essersi accontentate, dei risultati del vertice di Bruxelles, del varo della riforma dei trattati dell'Unione Europea, nonostante, come dicevi, il Regno Unito si sia chiamato fuori. Però l'attesa per questo vertice aveva provocato molto nervosismo per tutta la settimana, che era stata intensa di eventi. Per esempio, tra le cose che sono successe, ricordiamo che l'EBA, l'autorità bancaria europea, ha comunicato di che entità dovrebbero essere le nuove misure di ricapitalizzazione del sistema bancario europeo. Per quello che riguarda l'Italia sono necessari 15 miliardi di euro ai 5 principali istituti di credito, e nonostante questa raccomandazione dell'EBA le banche hanno retto discretamente bene a Piazza Affari, ad esempio. Poi siamo reduci dalla settimana in cui la Banca Centrale Europea ha dato una nuova piccola sforbiciata al costo del denaro, ha riportato i tassi di interesse europei all'1%, il minimo storico dalla nascita dell'Unione Monetaria. Semmai il mercato questa settimana è rimasto deluso dall'azione della BCE, che si voleva più aggressiva nei termini dei prestiti ai paesi in difficoltà, però Mario Draghi ha detto, con qualche dissapore di altri membri dell'esecutivo della BCE, che i trattati europei non permettono alla Banca Centrale Europea di erogare prestiti al Fondo Monetario affinché a sua volta presti ai paesi, e quindi qualche problema in questo caso c'è stato giovedì pomeriggio per le borse dopo questo evento. Comunque molti analisti sono convinti che senza politiche aggressive come l'acquisto diretto illimitato di titoli di Stato da parte della BCE, il mercato avrà molta difficoltà ad assorbire tutte le emissioni degli stati sovrani che arriveranno nei prossimi mesi, Simone. Grazie Deborah, e adesso vedremo, quindi naturalmente ti risentiremo come tutte le mattine alle 9 per capire che cosa succederà e come apriranno le borse. Grazie Deborah Rosciani, grazie a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia una buona giornata, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.